Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo sempre di energia, ma a volte dimentichiamo i flussi di materia dietro ai quali si nascondono flussi di energia che non sempre prendiamo in considerazione. Lo faremo allora questa sera, ma anche lunedì sera, a partire da un dato che voglio lanciarvi subito. Quando circa 30 anni fa Emory Lovins, che è uno dei padri fondatori della Green Economy, scrisse Capitalismo naturale, ci mise dentro questo numero. Diceva Lovins che solo l'1% dei prodotti è ancora in circolazione dopo 6 mesi dalla loro immissione sul mercato. Vi lascio immaginare dove finisce il restante 99%. E cosa più degli imballaggi ci viene in mente quando pensiamo a qualcosa che viene utilizzato per un tempo molto ridotto. Allora, proprio di imballaggi parliamo questa sera con Walter Facciotto, direttore generale del CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Buonasera Facciotto. Buonasera e grazie dell'invito. Ci mancherebbe altro. Quanto pesano gli imballaggi nel mix di rifiuti italiano? Dunque, gli imballaggi pesano nei rifiuti urbani mediamente circa il 4%, quindi non è un valore estremamente elevato, anche se dal punto di vista visivo sembrano molti di più. Cioè, i rifiuti urbani prodotti ogni anno sono circa 32 milioni di tonnellate, questo è un dato ufficiale riferito al 2008, quindi oggi sarà anche un po' di più, e gli imballaggi complessivamente sono circa 12 milioni di tonnellate, di cui solo una parte finisce nei rifiuti urbani. Di cosa parliamo? Sacchetti di plastica, sì, bottiglie, lattine? Di lattine, bottiglie, di cartoni, parliamo fondamentalmente di questi. E l'altro 96% da cosa è fatto? Visto che parliamo comunque di rifiuti urbani, non industriali, certo, per esempio, no? L'altro 96% è fatto principalmente da materiale organico. L'umido, cosiddetto. Sì, esatto, il cosiddetto umido. E poi ci sono tutte le altre frazioni che vengono considerate, per esempio gli ingombranti, che sono i mobili, che sono... D'accordo, le vecchie lavatrici, quindi, cose di questo genere. C'è tutta la parte, va poi bene, degli elettrici e degli elettronici. Di questo 4% noi quanto riusciamo a raccogliere in questo momento in Italia? Allora, dei circa, questi sono dati 2010, dati nostri aggiornati, dei circa 11 milioni e mezzo di tonnellate immesse sul mercato, noi ne ricicliamo circa 7 milioni, cioè pari al 65% circa. Che è un buon risultato, che no? È un ottimo risultato che questo sistema ha raggiunto. Se consideriamo anche la quota di recupero energetico, cioè non di materia, ma di questa energia nascosta dentro, dicevamo, questi prodotti. Esattamente, abbiamo un altro milione di tonnellate, quindi arriviamo ad 8 milioni, cioè possiamo dire che 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul territorio nazionale sono recuperati. Quanta energia si risparmia, per esempio, a riciclare una bottiglia di vetro o altri materiali? Magari se ci fa qualche esempio. Sì, ci sono degli esempi estremamente importanti. Per esempio, nel caso dell'alluminio, utilizzare un materiale riciclato, quindi alluminio riciclato proveniente dalle scatolette, dalle lattine, eccetera, c'è un risparmio ben del 95% di energia rispetto all'utilizzo della materia prima vergine, cioè a fare tutto il processo della materia di estrazione, trasformazione, eccetera, eccetera. Per la plastica siamo a livelli del 73% di risparmio, quindi rispetto, diciamo, a partire dal petrolio per fare poi tutto il percorso, per il vetro il 68%, quindi sono dei livelli estremamente elevati che dimostrano una volta di più che riciclare conviene. Senta, invece puntando un po' più in alto, si potrebbe puntare proprio a ridurre a monte questa quantità di rifiuti. Quanti imballaggi inutili ci sono? C'è un modo di incentivare la riduzione degli imballaggi? Diciamo che l'aspetto della prevenzione dell'impatto ambientale è sicuramente uno degli aspetti più importanti che anche noi come Consorzio Nazionale stiamo affrontando. Intanto devo dire comunque che c'è già un'attività delle imprese da questo punto di vista particolarmente importante. Per esempio, negli ultimi 10 anni il peso delle scatolette degli alimenti in acciaio è stato ridotto del 30%, quello della plastica del 28% e quello dei contenitori in plastica per la detergenza, quindi profumi, bagnoschiuma, eccetera, di ben il 50%. Quindi tutto questo ha generato in 10 anni per la collettività un risparmio di oltre 500 milioni di euro. Questo è quello che noi abbiamo stimato in termini socio-ambientali. E immagino che però ci sia ancora molto margine, anche con delle buone pratiche, no? A volte si vedono confezioni gigantesche rispetto al contenuto, cose di questo genere. Ultima frontiera, potremmo definirla così, invece è proprio quella del riuso. Una volta le bottiglie di vetro, come dire, si usavano per l'acqua, venivano rimesse lì, passavano a ritirarle, te le riempivano di nuovo. Oggi è rarissimo che si faccia qualcosa del genere. Esistono ancora oggi dei circuiti che sono dei circuiti particolarmente virtuosi e chiusi, diciamo, per esempio quello dei bar o ristoranti per quello che riguarda le bottiglie o altri contenitori. Comunque la quota a tutt'oggi dell'immesso al consumo sul territorio nazionale è circa il 30%, cioè il 30% di ciò che viene immesso viene riutilizzato più volte. Pensiamo anche agli imballaggi di tipo industriale, come per esempio i pallets, certo, ma anche agli imballaggi proprio più vicini all'utente, come le bottiglie di plastica o le bottiglie di vetro. Grazie Walter Facciotto. Grazie a voi. Bene, per questa sera ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.